Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Anna Maria Ciappa e vi terrò compagnia con la quarta puntata della rubrica Radio Giovani in Azione, rubrica promossa nell'ambito delle attività dello sportello Giovani per l'orientamento e l'informazione del distretto di Due, composto dai comuni di Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Cianciana, Alessandria della Rocca e San Biagio Platani. La scorsa settimana abbiamo parlato delle opportunità offerte dal programma Gioventù in Azione e nello specifico degli scambi giovanili internazionali con un giovane partecipante. Oggi vogliamo soffermarci su una specifica azione del programma, l'azione 1.2 relativa alle iniziative giovanili, progetti in cui i giovani partecipano attivamente e direttamente alle attività di tipo nazionale o transnazionale da loro stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, e per farlo parleremo con la presidente di un'associazione palermitana che ha realizzato un progetto 1.2 a Palermo. Radio Libriamoci Web. Letadlo, pozora by nespadlo, krouží si to nad Etnou, Itálii moc pěknou. Setkáme se s Turkama, bude velká zábava, Italové jsou hezcí, zajímá je pár věcí. Welcome to Bivona, with beaches and ice creams. Welcome to Bivona, your dreams will come true. Érem geldik, yalnız mafya bilirdik. Sicilya'da bir haftada arkadaşlar edindik. Dünya kır kuplu kazan, sen de tut sen de kazan. Dünya kır kuplu kazan, sen de tut sen de kazan. Sen de tut sen de kazan. Welcome to Bivona, with beaches and ice creams. Welcome to Bivona, where your dreams will come true. Se ti guardi intorno scopri com'è bello il mondo. Ci sono molti amici che stanno solo aspettando te. Se superi i confini e guardi oltre il mare, scopri colori e sapori che ti insegnano ad amare. Welcome to Bivona, between beaches and ice creams. Welcome to Bivona, where your dreams will come true. Welcome to Bivona, with peaches and ice creams. Welcome to Bivona, where your dreams will come true. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in Azione. Ritrovati, come anticipato avremo la testimonianza diretta dei protagonisti del programma. Adesso invece ci intratteniamo con Angela, facilitatrice dei gruppi giovanili. Angela, che cosa si intende esattamente per iniziativa giovanile e chi può partecipare? Dunque, le iniziative giovanili sono un'importantissima azione del programma Gioventù in Azione, quelle che in pratica racchiudono lo spirito stesso del programma e consentono ai giovani di sviluppare la propria creatività nella vita quotidiana e di sviluppare progetti nazionali o transnazionali in maniera diretta da protagonisti. I giovani attraverso questi progetti possono sperimentare idee attraverso l'ideazione diretta, la pianificazione e la realizzazione operativa dei progetti, sia in ambito nazionale, se l'iniziativa viene realizzata sul proprio territorio, o anche in ambito transnazionale, attraverso una rete di partenariato con altri paesi europei. Chi può presentare un progetto di iniziativa giovanile? Dunque, un promotore può essere un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, ma questi tipi di progetto sono particolarmente indirizzati a gruppi informali, cioè giovani ragazzi che sulla base di un interesse specifico comune si mettono insieme e decidono di presentare un progetto, quindi sono particolarmente favoriti, indicati per questo tipo di progettazione. Quando è possibile presentare un progetto? Dunque, un gruppo di ragazze, anche di quattro amici, possono presentare un progetto sia alla scadenza del 1° maggio che a quella del 1° ottobre. Come? Facilissimo. Collegandosi al sito dell'Agenzia Nazionale Giovani possono scaricarsi la guida, leggersi ovviamente i principi generali del programma e andare a vedere l'azione 1.2, scaricandosi il formulario ed eventualmente cercando partner se vogliono fare un progetto transnazionale sul sito Eurodesk, chiedendo aiuto allo sportello giovani di Bivona. A quanto ammonta il finanziamento? Dunque, in Italia, come in tutta Europa, il finanziamento per questo tipo di progetto è forfettario, cioè fisso. Il massimo finanziabile per una 1.2 nazionale ammonta a 6.000 euro, se transnazionale 8.700 euro. Se sono previsti minori all'interno di gruppi informali, cioè se gli amici sono minorenni, è possibile anche prevedere la figura del coach, e per questa figura è previsto un finanziamento aggiuntivo di 1.100 euro. Bene, ringraziamo Angela Solaro, facilitatrice gruppi giovanili. Torniamo tra poco. Radio Libriamoci Web. Ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Ritrovati. Come annunciato, adesso parliamo con Paola Pizzo, presidente della cooperativa sociale palermitana Bond of Union, che da poco ha concluso un progetto 1.2 dal titolo Imagine Vucciria. Paola, perché avete presentato un progetto 1.2? Allora, l'idea di presentare il progetto Imagine Vucciri è nato dalla volontà di fare un progetto con i ragazzi del quartiere Vucciri, dei ragazzi di 15 anni, quindi abbastanza piccoli di età e che appunto avevano bisogno anche del supporto e di un coordinamento per la presentazione di un progetto. L'idea nasce dall'interesse che questo gruppo di ragazzi mostrato verso dei ragazzi più grandi, di cui uno in particolare è stato il coach del progetto, Andrea Cattano, che è un fotografo e che vive nel quartiere Vucciria di Palermo. Andrea spesso gira il quartiere con la macchina fotografica e appunto alcuni ragazzi, tra cui due Erdogan e Skender, sono due ragazzini di una famiglia rom che vive nel quartiere, sono stati sempre incuriositi da questa macchina fotografica. Quindi da questa semplice idea è nata la volontà di creare appunto un progetto per permettere a loro stessi di fotografare il quartiere in cui vivono e di darci una loro immagine del quartiere, quindi un'immagine della Vucciria data da chi c'è nato, cresciuto e vive quotidianamente il quartiere. Come avete presentato il progetto e quali sono state le fasi di realizzazione? Imagine Vucciri è stato realizzato da fine maggio 2011 a fine gennaio 2012, per una durata totale di 8 mesi. È stato richiesto anche un prolungamento perché appunto ha richiesto un periodo abbastanza lungo. Nella fase iniziale abbiamo appunto preso contatto con i ragazzi, abbiamo acquistato il materiale, delle fotocamere, abbiamo deciso di usare delle fotocamere analogiche in modo che i ragazzi avessero a disposizione dei rullini e potessero quindi avere un tot di fotografie da poter scattare. E da lì, una volta che è stato recuperato il materiale, è stato avviato un vero e proprio laboratorio fotografico, quindi con una cadenza settimanale i ragazzi si incontravano in uno spazio che abbiamo affittato limitrofo al quartiere Vucciria. E quindi nel laboratorio Andrea Cattano, il fotografo assistito da Silvia Renda, hanno introdotto proprio i ragazzi nel mondo della fotografia, hanno fatto vedere dei video di fotografi famosi, riviste fotografiche, hanno fatto un lavoro proprio introduttivo sull'immagine e sul perché proprio nasce l'esigenza di fotografare, cercando anche di coinvolgere i ragazzi anche sulle loro motivazioni, sul capire perché volevano avvicinarsi al mondo della fotografia. Ringraziamo Paola Pizzo, presidente della cooperativa sociale palermitana Bond of Union. Ritorniamo tra poco. Radio Libriamoci Web. I don't wanna breathe no more. I don't wanna live. I don't wanna cry no more. I have no more tears to give. The way you made me feel, I know I'll never feel again. And to know I'll never hear your voice is tragic, I know. I can't feel a thing, but I know this world is gold and it isn't. Say, yeah, yeah. To walk out of, no. I feel so alone, no. And I get so scared, yeah, yeah. Without your touch, I need it so, but and I just can't. Say, yeah, yeah. To know that you're gold, I can't believe you're gold. So unfair. Can't grieve, I'm bored of feeling. That's the way I choose to live. A loss with no good reason, and that's what I can't forget. The way you made me feel, I know I'll never feel again. And to know I'll never hear your voice is tragic, I'm numb. I can't feel a thing, but I know this world is cold and it isn't. Say, yeah, yeah. To walk out of, no. I feel so alone, and I get so scared, yeah, yeah. Without your touch, no. I need it so, no. And I just can't. Say, yeah, yeah. To know that you're, no. I can't believe you, no. Yeah, it's so unfair. So why won't you just go? Even when you're here, you're so damn close. so. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. La puntata volge a termine. Siamo tornati con Angela Solaro, facilitatrice ai gruppi giovanili. Angela, come puoi aiutare lo sportello nella presentazione dei progetti? Lo sportello giovani può aiutare giovani, insomma ragazzi che abbiano voglia di presentare un progetto, innanzitutto supportandoli nella ricerca della documentazione necessaria e quindi il formulario, la guida del programma Gioventù in Azione, il vademecum per non sbagliare, dove sono indicate le regole per inviare i progetti in maniera corretta. Inoltre lo sportello può anche indirizzare giovani a portali, gruppi, siti dove poter trovare partner nell'eventuale scelta di presentare una 1.2 di tipo transnazionale. Ricordiamo le ore dello sportello, che vanno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 19. Insomma, approfittate di questa occasione perché è un'occasione unica e importante. Ringraziamo Angela Solaro. Io vi ricordo che la prossima puntata andrà in onda giovedì prossimo alle 18 e in replica alle 22.30. A giovedì prossimo! Radio Gioventù in azione.